ciao Bacchi, buonasera, dove sei a casa? Recuperate gli ai e vedo un po', vai. Vedo un po', Bacchi. Se avevo due nuove, ragazzi, le avevo messe da parte per darteli a te. E non so dove le ho rimesse. Cazzo, ma ho trovato quelle, ma sono nuove quelle lì, le ho provate, capito? Quali sto scendo le oggi? Oh, va bene, ma che va bene, un errato. E ora quella che ci ho messo nel mio tu, quello piccolino. Ah, ecco, capito. Allora, quel passaggio? Un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, com'è la numerazione? Ah, io ti sento bene, là. Ti sento benissimo. Per cui, va, per me va bene. Ma con l'antennino sì. No, con l'antenna grande, sono su. Ah, mette la portante. Vedi un po'. E la portante è 9.30, va bene, vai. E tua numerazione è applicata, è normale. Normale però. Fa un altro passaggio, ho sentito qualche cosa che non mi piace. Adesso l'ho messo al massimo, lascia a 10, vedi un po'. Ah, va bene, molto vicino ce l'hai alla bocca. Vedi un po' adesso, se mi ascolti. Normale, Bacchi. È una radio normale, capito? L'applicazione non è niente. Ah, per me potrebbe anche andare, ecco. Ma tutte e due le approvate? Sì, infatti adesso sto provando l'altra. Sì, aspetta che provo un altro apparecchio, che con questo non mi piace non mi piace tanto. Aspetta che faccio un altro apparecchio a vedere come arriva sull'altro. Sì, sono qua. Prova, Bacchi. Sì, adesso andiamo a vedere la situazione. Un altro passaggio? Vedi un po' come la situazione adesso, migliorato, peggiorato. Mi sembra bassa la radio. Sì. Sull'altro rimane più appena più forte, mentre qua rimane più bassa. Sì, e poi che era strano, perché il segnale è buono, è 9.30, ma la radio non è buona, ecco, è bassa, non è che non sia buona. Chiara è chiara, ma è bassa. Adesso non sei uscito, Negativo radio, Non c'è radio, Bacchi. Siamo ritornati indietro. Adesso radio c'è? Come? Adesso la radio c'è? Adesso è forte la radio, ho sollevato anche i volumi qua. Adesso la sento forte. Adesso sono qua. Ma si porta appresso un rumore, capito? E confonde la radio, non molto, però te la confonde la radio, capito? Si sente un bel rumore, forse l'amplificazione. No, se la confonde quel rumore, si porta appresso qualcosa. Sì, cosa c'hai attaccato? Niente, ci sono quel rumore e basta. Quel rumore e basta. Ecco, adesso sei uscito perfettamente. Ecco, adesso è 5 la radio. Adesso va bene, e allora è tempo di mettere il microfono. Allora, il tasto non funziona bene, c'è qualcosa da fare. Adesso è forte, stavo dicendo, ma si è amplificato il microfono. Sì, è cazzo, a momenti esce bene, a momenti si porta appresso dei rumori, capito? Però è sempre al microfono, Si è sempre al microfono. Sto parlando da 50 centimetri di distanza, No, è come c'è l'alternata, capito? È un rumore specie di alternata che ti fa. Sì, allora, la capsula non è compatibile. Va bene, no. Fate il fitto perfetto però, eh. Meglio che lo esce, cercando come non ci va la cosa anche di più allora. Non è perfetta perché ci porta appresso questo rumore, sembra un ronzio, però un ronzio grosso, capito? E allora disturba la radio. Sì, aspetta che cambio radio, che si riscuola un altro, essere quasi pro, su questo passaggio eri quasi pro, perfetto, Senti, Giovanni. Adesso è perfettissimo, perfetto al 100%. Questo è la radio nuovo. Questo è l'inter che è nuovo. Cazzo, questa è perfetta la radio, Questa è perfetta, bella, forte, la tua, la solita radio tua, ecco. Non è quello là che non funziona. La radio che non funziona. Oppure penso che sia così, ma chi è? Questa è la radio perfetta, 100%, capito? E tutta un'altra cosa. Non ci sono rumori, la radio è... insomma, la radio è perfetta e basta, capito? Sono a 8, l'ho messo a 8. Aspetta che aumentiamo un po', adesso ho manetta, cosa succede? Fa un passaggio? Un po', si è migliorato o peggiorato? No, direi che va bene, là. No, notate nessuna differenza, La radio è fortissima, è bella chiara. Noi lasciamo inserito questo qua. Ma è l'unica macchina, almeno ti sentiamo bene, ragazzi. A me se sentiamo bene c'è poco da fare. Questo è perfetto la radio, vai, non devo dire niente. Allora, devo portare quello al dottor Strano Amore, a farglielo vedere. Fai così, ma chi? Fai così, e chi dà ragione? Dai, se tanto c'è la radio allora. E la radio magari vuole controllato e messo in frequenza giusta e vedere un po' tutto lì. Forse tutta la sera acceso, è scaldato, e quello lì dove se quando scalda non funziona più. È quello, quando scalda la funziona. È quella radio che aveva che c'è Graziano che aveva comprato a quello di Sindori. Cazzo, appena che scalda, esce male, infatti ce l'ha messa da parte, non l'ha toccato più. E così è quello tuo allora. Perché stasera stiamo provando a vedere un po' cosa succedeva. È scaldato, è caldo. E quando non scalda non funziona più, se va a dormire. No, infatti, quell'apparecchio è stato toccato e non va bene, quando sì, riscaldare deve scaldare, oddio, però non molto, capito? Perché io ho le serove, ce l'ha diviso, ma tutti, non il mio solo, cazzo scaldava la manetta qua, l'apparecchio nuovo, me lo sono venduto perché scaldava, però l'apparecchio usciva, mettevo la mano sopra, ragazzi, non ce la facevo a lasciarla da quando scaldava, però l'apparecchio era perfetto, sa che io quell'apparecchio l'ho venduto, cazzo, l'ha attaccato sul camion, dice che non scaldava sul camion, e in casa scaldava, me ne sono comprato un altro preciso, cazzo, altri 400 euro, queste robe, mica scalda lo stesso, ed è questo che c'ho a casa, capito? Anche quello scalda, allora ho cercato la ditta, l'ho trovata e l'ho detto questo particolare, e mi ha detto, dice, le serove sono tutti così, scaldano, poi si rovinano e non funziona più l'apparecchio, dice, infatti, dice, non abbiamo ordinato più per quel motivo, perché si sono lamentati parecchi altri, capito? Mi scaldare, devono scaldare tutti, e io ho visto perché scaldava, però perché funzionava bene nonostante che scaldava, però questo tuo non funziona quando scalda, quando scalda niente, non esce di radio, infatti mi ha detto non usciva, ho inserito pure lì, e quello lì allora, mi manda quello. Vai così, vai. Lasciati questo, ma chi almeno ti sentiamo, dai. E quello là magari fatelo riparare, se te lo riparano, sa, ma se chi te lo ripara qua? Non mi direi che torno a dare a quella persona dopo. Beh, ti vogliono strumenti adatti e lui non li ha strumenti, capito? Quindi che ti vuole una persona adatta. Che sappia cosa c'ha in mano, capito? Ma chi? Ha bisogno di telefono di mio cugino stasera. Le dico, ascolta, io te lo mando, siccome c'è a fianco di casa sua c'è un laboratorio che ripara la radio di tutte le maniere, anche quelle militari, è amico di Angelo, le dico, guarda, se ti mando questo qui me lo fai riparare, non saranno quelle 15 euro di spedizione, andate e ritorno. Ma chi, vedi un po' tu, vedi un po' tu, è un macello, quando l'apparecchio funziona poi, meno male io tutti quelli che avevo già li ho portati fuori, li ho già buttati fuori, per cui io ho tutti apparecchi nuovi e sono tranquillo, capito? Ma perché è una rottura, ragazzi, oggi funziona, ma non funziona, ragazzi, mi stufa. Ha fatto dei sacrifici, me lo sono comprato l'uovo e sono tranquilli. Comunque se tu riesci a fartelo riparato, quindi dico, è una cosa buona, prova a vedere cosa vuoi fare. Purtroppo devi spedirlo per portarlo su, e per portarlo giù devi pagare sempre. Chiaro, bisogna sempre pagare, 15 andate e 15 euro di ritorno, e posto voglio 15 euro, sia l'andata e al ritorno, e poi c'è anche la riparazione. Tu mi dai, esce uno nuovo, ma questo mi piace di tenerlo, capito? È un vecchio apparato che ho 35 anni buoni, cioè. Ma io mi avrei fatto riparare più importante quello urante che c'hai, ma che quello è un signor apparecchio, magari pagherai di più, però almeno c'è un apparecchio come si deve, ma chi, quello è un apparecchio come si deve. Io quello mio due volte l'ho riparato, l'ho fatto uno qua in Sassari che si è tenuto 3 mesi, che un giorno sono andato a trovarlo e te l'ho visto tutto a pezzi sopra un banco tutto pieno di polvere in mezzo alle cose. Altro, guarda, chiudi quell'apparecchio, pulisci l'andame, e gliel'ho preso, si può immaginare. L'ho spedito a Biancori, in 4 giorni l'avevo a casa, perfetto, mi dai, quello si è voluto far pagare, però mi ha fatto una cosa come si deve, ragazzi. 4 giorni c'è adesso. E infatti fuori è più, no, ma il grande funziona, il grande va, alla grande va. Allora, ma chi? Vabbè, tu per vedere, tu sei, ti piace la roba antiquariata, ho capito. Vabbè, allora fai così, ma chi? Te dici, io vedo un po', te lo riparerà senz'altro, se un tecnico buono già te lo ripara, e per cui arriverà come nuovo, anche se paga una cosa di più, che se ne frega, però almeno c'è un apparecchio che si funziona di nuovo attorno, capito? Se bisogna metterlo, farlo, e quello da 5 watt, quasi sì, ne dà. Invece questo è 4 watt, infatti, 4 e 2 saranno, non di più. Ma chi? 4 e 5 siamo lì, ma chi? Guarda, io con questa apparecchio che stai scendendo tu adesso, ce l'ho anch'io, ce l'ho io, tu e Tore, ma io lo sento bene, lo sento perfetto, se metti 5 watt lo sentirò la stessa cosa, ma chi? Va bene il 5 watt, questo è un bombò, io ce l'ho preciso al tuo, preciso a quello di Tore, vado bene, anche se ho 4 watt, forse va più bene di quelli di 5 watt. Chiaro, è chiaro, bello, la recensione è ottima. La recensione è ottima, non c'è nulla da dire, sono perfetti come apparati. Ah, te ho credo, è facile. No, no, me lo so preso subito io, trovassi, ma io di quelli primo monogatto 3 o 4, ma li ho messi da una parte, e me lo sono dovuto comprare nuovo, quello lì. E io avevo comprato, allora ho comprato il 488, quello che c'hai tu, poi ho comprato il Presidente Birri, poi ho comprato il 2000, CRT 2000 pure, e tre ne ho comprati in un mese. E sono tutti perfetti, sono tutti 4 watt, e gli altri, quelli che avevo, li ho messi da una parte, no, non li uso più, forse qualche volta li tolgo e li faccio funzionare a uno, però mi piacciono questi qua davanti, lì ce li ho tutti e 4 davanti e sono tranquillo. Boh. Di quei vecchi ho cominciato a farle fuori di qualche uno. Domenica mi ha regalato uno, un altro amico mi ha detto, cioè, quanto radio hai? Se uno me la dai, hai detto scegli, prendi quello che vuoi. Ma è fatta per tanti, io ti faccio per bellezza cosa, ma non saranno adesso alle talostra pure, cosa fai? Ma non sai quanto ti ho regalato io, ma chi? Non hai idea, forse mi hai capito, a chi? A due o tre persone, però funzionavano, mi erano perfetti, non mi piacevano più. Adesso mi compro questi nuovi che hanno i frequency, mentre vanno sempre, sono quasi digitale, diciamo, ecco, e sono più perfetti, roba nuova. Roba nuova funziona migliore. Ma quella la voce dice, mi ha messo a posto, adesso funziona, mi ha girato il microfono, ci vuole l'antenna e tu stai parlando, è l'alimentatore. Vuoi parlare, se lo lasco, no, bisogna per ascoltare, uso ascoltare. Però stai innescando, ma chi? Io cos'è sto innescando? L'amplificatore. Allora, l'amplificatore non ci funziona qua, aspetta un po' che lo stacco. Stacco l'amplificatore. Le colonnine amplificate non mi vanno, vedi? No, ancora, si innesca ancora, Perché era acceso l'amplificatore, adesso non innesca più. Esatto, adesso è perfetto. L'amplificatore delle colonnine entra in risonanza sull'apparato. Io ne ho 4 piattati qua, no, e c'ho 4 colonnine esterne, però non fa niente, ma chi? Non fischia, lo vedo un po'. Adesso sono amplificate, quelle c'hanno l'amplificatore incorporato, invece la colonnina esterna normale non succede nulla. Ma allora quella amplificata cosa le fai? E togli e ti metti le colonnine normale, ma se che c'erano 8 ohm e 5 watt, le colonnine sono perfette, ci vogliono sempre le colonnine 8 ohm e 5 watt, non di più né di meno. Se questo l'hanno amplificato, lo inserisco nell'altro intake, che in quello che non funziona adesso, è perfetto. Su questo innesca. Ma che mi stanno chiamando, dai, ci sentiamo dopo che sta arrivando gente, ci sentiamo dopo, lascia questo Machimi, che almeno ci sentiamo bene, gatto. Ok? Gianmarie, no, continua a vedere un po' su quell'altro cosa si può fare, ci sentiamo dopo, buon quartetì, e ci sentiamo più tardi magari, ciao Gianmarie, sotto in casa. Ok, è andato tutto, Machimi, dai, a dopo. Bacchigio! Attenzione Bacchigio! Bacchigio! Attenzione Bacchigio! Canta, Ciotolo, buonasera! Ehi, sono andato a tirare la capsula! Sì, la stiamo piazzando, uno lo piazza, sta facendo l'altro! Oh, va bene ci va, devi farlo con il polistirolo in mezzo, sei piccolina! Come mi ascolti? Ah, ti ascolto bene, sembra che sei dentro un coso, una stagnara! Se giuro, ma ci va bene! No, come voce ti capisco bene! Forse perché rimane fuori. Ah, è messo a posto suo, è messo la gomma piuma. Mette la gomma piuma, ma comunque ti sento meglio di quella là. Questo è più amplificato però. Prova a abbassare appena a vedere. Otto, bene va. Va benissimo. Stava sentendo più bene. Adesso sto parlando a 50-60 centimetri di lontano, Stava sentendo più bene, intendo. Migliorato. Ha migliorato, sì. Correggimi però stasera c'è. L'acqua che ci sta facendo la QRM. Infatti bisogna chiudere lo squelzo un po'. Sì, appena io sento solo sento. Si sente, poco si sente. Se chiudi tutto poi non senti nulla. Infatti. Se chiudi troppo non si sente nulla, no? Ci ho trovato il punto giusto. QRM è zero. Comunque la radio è perfetta adesso. È già è buona. Tanto l'apparato nuovo però. Ah? Ma non hai provato con l'altro apparato, no? No, l'ho provato, però aspetta che te lo faccio sentire l'altro apparato, se esce, perché poco fa non usciva. No. Ma con lo stesso microfono no, non esce. Non lo so, adesso provo, aspetta. Vedi un po'. Scatta, è più amplificata. Questo è un apparato vecchio. Prova a abbassare un pochino a vedere. O il mic gain abbassa. Avanti, il mic gain è a metà. E comunque è amplificata un bel. Prova a abbassare ancora. A metterlo, prova a metterlo a 6 a vedere. Adesso è a 6. È meglio. Adesso è proprio più amplificata. Cazzo è a drufu. Non ci vogliamo amplificare niente. No, perché è amplificata troppo alta era. Anche nell'altro si sentiva male. No, nell'altro si sentiva bene lo stesso, però con questa è ancora più forte. Questo qui da qualche volta in più, quello da 4 volte, questo 5. Però ti stai portando dietro un rumore QRM porta più. No, con il microfono ti porti dietro. Io lo sento nella radio, no, no, questo deve essere come scalda ti fa. A scorreggio? Se lo aumento un po' aumentando cosa succede? Ah, se mi andata la voce. Adesso. A tratti sì. Tutto a tratti? No, si è amplificato, però adesso prova a vedere. Vuoi un po', 1, 2, 3? Forse mi devo assegurarsi. Si è a 7, è sicuro apparato vecchio. Lascialo così, lascialo. Poco fa ti stavi portando il ronzio. Anche il ronzio ci vuole. No, c'è qualche cosa che come che stia toccando. E ti fa il ronzio. No, ti come schiaccia, ecco, parli, ti porti. Io non sento la radio, vado a cercare la tu. Io faccio se sente, in alto palazzo, come una cosa che sta facendo. Chi? Non riesci a capirti nulla. Io non sento la palazzo. Buttaci tutto. Ciao Antone. Ciao Antone. Ciao Antone, io ci butto a te dell'apparato, questo c'è più vicino dell'apparato. Sicuro. Come ti arriva del radio? A volte, adesso è uscito bene, ma poco fa, tutto sembrava molto piccolo. Adesso sei basso del radio, sì. Adesso ma che arriva, non sono l'altro. Passo di radio e segnale ti si è abbassato anche di segnale. Ma segnale a me mi arrivi 5 di segnale. E adesso quanto so di segnale? Adesso è più 30. Ho visto vai. Quando si dimenticano di spostare le rete e fece andare al buio, apro la bicchia di tricia. Antonella, come mi ascolti? Se mi sente il segnale, ne mancano anche 10. Poco fa è più forte, quindi non mi sta bene, cioè non lo so, è come là come la verità, comunque sia, ti sento più basso il segnale. Più basso, questo è l'apparato nuovo, questo è da 4 watt, sta dando 4 watt, quello è da 5 watt. Non lo so, comunque sia, sei in basso di segnale, l'aria è buona, quello che vuoi. Radio chiara, bella, limpida, lavata con un perlana, come l'hai lavata? È chiara, non ti preoccupare, è limpida anche, non sono l'altra. Allora, la potenza è quella che è. Questa spinta non è, ma quell'altro non era più spinto, 5 watt, ripeto, quello là, questo 4 watt. Vabbè, non c'è problema, sarà una bella differenza, vabbè, con quello che sia. Sì, avanti. Sì, aspettate 10 minuti, un attimino, 5 minuti, che me ne piego una roba sopra il tavolo, stavo facendo cosa, non vedo che ridiscendo. Già, entro subito. Sì, va bene, Tore, raccogli la roba sopra il tavolo, questo di carriera. Allora, dottor Antonello. Dimmi tutto. Quello là, quando scalda non esce più. Quando si scalda, gli fa un raglio. Vabbè, stanno là sopra e glielo serve, lo controlliamo. Cosa vuol dire che io? Lo guardiamo assieme e vediamo cosa diavolo c'è. Sì, ma cosa sarà? Così, a indovinello, che malattia c'ha? Non lo so. Me lo punti su e lo guardiamo assieme. Così almeno sei più tranquillo e più contento. Sicuro che non ne capisco un H io. Ehi, già ne capisci qualche H, se lo guardiamo assieme, non ti preoccupare, tu fregatene. Ma io mi porto la pentola a pressione per farlo scaldare. Non c'è bisogno di scaldarlo, no. Al limite ci ho messo dentro qualcosa. Ce ne sono fiumi ormai che tra cima, non lo sai. Ce lo metti lì e lo porta fino al fatto progress e poi andiamo e lo recuperiamo piano piano. Benissimo, allora. È malato. La sera è sceso. Ha funzionato per un po', poco fa con Gian Maria e poi chiude i battenti. Allora, lo guarderò assieme. Lo proviamo anche, vediamo un po' cosa diavolo c'ha. Non costa niente, tanto anche io due lo sai, quindi non c'è problema. L'amplificazione ce ne senti questo apparato? Non ho capito. L'amplificazione ce n'è? Sì, sì, c'è. Se no sto pensando di fargli l'operazione. No, è tranquillo, a posto. Ma quello è a posto, l'altro è il resto. E poi quell'apparato riparato l'hai per darla a quella persona? No, ancora non vedi, è una cosa un'altra, sono già, lo sai. Ma chi, se no l'avevi già fatto la prima. Anzi, l'avevi chiamato la prima, non sono l'altra. Dai, almeno la prossima anno è contento e corrotto. Non c'è problema per quello, non lo sai, mi ha fatto sapere di quell'apparecchio. Io almeno vederlo, cioè averlo così smontato, lo sa anche lui, quindi anche per quello non c'è problema. Lo sistema glielo e così almeno a posto. Adesso vuole piazzare l'antenna, maestro, un giorno dietro, nel terrazzino. Può piazzare, rovinare una Grand Plain per farsi l'antenna. Vabbè, la Grand Plain ci sono per le femmine, più che altro. Oltretutto 100 volt, bisogna avere la misura, il discorso è quello. Se boh, non faccio. La Grand Plain è quella della 27, quella che ci usavano alla cavalcata. Ce ne devono essere tre, e mi sembra che ne è rimasta una. Quella è sempre la 27, non sempre la cavalcata, quindi. Vabbè, bisogna parlare, a parte bisogna parlare con quello là, che magari c'è, tu dici ce ne sono tre, magari se li ha venduti due, il discorso è quello. Quindi, bisogna parlare con lui e dargli una cosa in cambio di quella roba lì, il discorso è quello. La stazione base, basta che tu li estracci la stazione base e qualche altra cosa. Adesso vediamo un pochettino, se magari serve qualcosa ti faccio sapere. Lui in pratica gli piace VHF e roba del genere, quindi vediamo un pochettino. in cambio di quelle apparecchi, la verità. Adesso vediamo un po'. Qua non sistemo quelli VHF e cose del genere VIU e ti faccio sapere, vediamo cosa diavolo risponde, se risponde di sì o di no. Se risponde di sì andiamo assieme e andiamoci e ritiriamo. Cosa vuoi dire? Che per trovarlo a fianco al garage, la sera lui al circolo a fianco al garage, cioè dai cose dei comunisti, e sta trapesando lì adesso. E c'è ogni sera, c'è la mattina, c'è la sera, c'è sempre. E vabbè, non è che ci sto scendendo la verità. Adesso ci scenderò più che altro per lavoro, perché ci sono più che altro le assunzioni, quindi scenderò lì per quello, quindi a un certo punto, dopo trovo verso gli 11:30, lui arriva a quello l'ho capito, 11:30 e vediamo un po' cosa vuole fare, non lo so. Ti farò le fotografie di quello che c'ho e cioè di voi e poi mi chiederà lui. Cosa posso fare? Cosa vuoi dire che hai? Mi sento portare le apparecchie appresso. Bacchi, sono rientrato. Tanto la stazione base non te la dà. Te l'ho chiesta io e non ne dà. Sono telefonino per le mie cose, le registri, le fotografi. E gli fai vedere, ci dice questo e questo così, questo e questo come va, questo come va. E sciogli il colore che serve, questo voglio tutto. Vabbè, comunque sia, quello che è, vediamo un po'. Adesso vedo di sistemare le cose prima di andare via all'ufficio di collocamento, poi si vedrà. Se lui ha, mi serve qualcosa, al limite se la prende, se no se la piglia in culo a un certo punto. Non è che devo andare a, non devo fare come Salvini e quell'altro, no. A ribasso non esistono, capito? Non posso avere un apparato da 450 lire per darmi tanto 7-8 portatili, non ho fatto proprio niente la verità. Quindi a un certo punto dico cosa vuole in cambio e poi si vedrà. Sto dicendo che Giovanni la stazione base non ne dà, gliel'avevo chiesta io e non ne dà adesso. Sì, ma quella che c'è in casa sua, ma c'è la base e quella l'altra, il 40 canali, che fa MFM, USB, DB, quello ce l'avevamo in sede. Ehi, che fine ha fatto che c'è apparecchio? Devo ricevere che devo avere risposto. Ah, io se c'era la venduto. Antonello l'ha dato, quello era Antonello, se l'ha ricattato. Chi c'era? D'Antonello era. Beh. Non io però, Tu ho visto mai quello Antonello? Sì, già l'ho visto, che te lo pare. Comunque lui ha parlato di la verità delle. In pratica del primo Galaxy è stato un Echo. Galaxy si chiamava normalmente, si fa Echo, quindi mi ha fatto solamente di quello, ce l'ha comunque, perché mi ha detto quello il giorno che ci siamo visti per fare quella processione, già lo sai anche tu, quindi ce l'ha, non ti preoccupare. Noi la stracciamo anche, quello si può stracciare, ma non la molla, quello preferisco quello che non molla. Vabbè, ma di quello non me ne frega proprio niente di quella parecchio. Il creato, già dice 4-5 portatili da dare cose del genere, così mi ha parlato lui, in cambio di una cosa, e quindi adesso sì, vediamo un pochettino. Se la contenta è bene, solo se la tocca in culo, a me di avere roba del genere non mi testa proprio niente, ce li ho e mi ritengo. Sì, per modestia, bisogna lasciare la roba. Ah, appunto, per quello, per modestia, per modestia, il discorso è quello lì. Ma siccome a lui gli piacciono quel tipo di apparati là, a un certo punto, guarda, se riesco ha trovato qualcuno che non riceva quel tipo di apparato. Tutto utilizzo a casa, mi ha detto, cosa fai, 3, 4, 5 di quei cessi, io non ti fai proprio niente, e tale uguale come costo, noi li siamo molto, gli ho detto, tale uguale, a parte che funzionano almeno 27, gli ho detto, beh, tutto qui, vabbè, ci sono gli avvoltoi, già lo sai, gli ho detto, quindi a un certo punto se vuoi fare così, tu cerca gli avvoltoi, mi vendi lì e va a far culo, a me non me ne frega niente, gli ho detto. Ma tu cosa gli vuoi dare? Lui ti deve dare a te un coso, un portatile ti deve dare. No, voleva mettere il portatile in cambio di un liquido PMR, più che altro, capito? Un attimino, Mari. Buonasera. L'unica cosa che cosa lui ti ha detto a te, che ti dà il portatile in cambio del PMR. Sì, di un PMR, non uno e basta, non due, uno e basta. Ma non lo so, prova se te lo dà. Ma te l'ha detto lui, te l'ha detto. Sì, ha detto lui che noi siamo andati lì a fare quel servizio, capito? Ha detto lui, c'era anche Battista, ha detto. Infatti ho detto, non lo so, ho detto, guarda, la verità, ho detto, devo, ho detto, pensarci, ho detto, bene, ma è tutto, ho detto. E a un certo punto ho detto, non lo so, ho detto, vediamo un po'. Che fa così, se ti conviene? No, a me, la verità, non mi batte un cazzo del coso, del PMR, ma il discorso è questo, cioè, dagliene uno, no. Cioè, non sarebbe neanche giusto, ce ne avrebbero due in teoria, ma quello che è, non lo so, poi vedrà lui. Poi ci sono quei PMR normali, quei PMR giocato, già lo sai, che tu, quindi a un certo punto, non lo so, cioè per avere cessi, a un certo punto cessi di loro, il discorso è quello. Avanti, fammi entrare che voleva entrare. Marino! C'è Bacchisio, avanti Bacchisio con buonasera. Buonasera, dottor Marino, viene scusciato. Allora, come mi stai ascoltando lì giù? Qua sta piovendo, qua sta deroviando Bacchisio, sta deroviando. Vento nulla, acqua un bel. Adesso facciamo un bel cavattore, avanti tu. Sì, e gli avarrivi si dan chivi ai nomi. Già ci arrivo, tu non preoccupare, già ci arrivo. Piano piano, stacco la pompa, devo sombrare un bel cavattore di vostro. Ma non stavo ancora, l'ho sentito, avanti. Sì, ma sai che si basso di segnale? Il 5-10 per Marì. Sono basso? Non lo so, vabbè, qui sono buio adesso. Forse ho toccato qualcosa, sono buio, non ho acceso nulla, avanti. Sei quasi 8, sì, il segnale, strano. Sì, mi invito i segnali, di solito andavi da 8 a 9 e 10. Non so se fai lanciatore, così guardo, adesso non c'è la, guarda se qualcuno ha fatto qualcosa, vai. Adesso va bene, si sta stabilizzando, quasi 9, sì. Il tempo di scaldare, Antonio, lascia scaldare un po', dai. Va bene, ok, dai. Avanti, top. Sì, buonasera Marino, ci aspetta, tu buru sei buonasera, ma te l'ho detto io cosa devi fare. Cosa mi ha detto? Prova a metterti un foglio sotto a vedere, un foglio o una foglia. Guarda, ci stavo pensando, ma un foglio non basta, mica ci vuole un blocco di giornale, ci vuole. Vai troppo tu. Non fa bene, non fa nulla, so. Scusa. Avanti, signor Bacchisio. Ma se ci metti un drone ascolti meglio perché sale in alto. Allora, ma non ci vuole credere, Tore, è sempre il solito. Poi Tore ce l'ha sempre con me, la scusa che sono più piccolo, neanche il nero ce l'ha sempre con me. E allora va a Tonella, avanti adesso. Prova un po'. Prova in questo passaggio, una, due, tre, prova. Quasi 9, sì. Non sei normale come segnale. Sei... 5 dB abbassato, 96, 9, 9, 10 in teoria. Vabbè, vai a scaldare, vabbè, qui è a posto, boh. Non so. Bene, avanti tra. Sì, chiatta. Ma ci piove lì. Però sono stato lontano, qua sta dove lontano, non so, boh. Proprio, sempre là, non vuole calmare, non vuole calmare, non so perché, avanti. Sì, ma l'ha messa sino a stanotte l'acqua. Non lo so, un casino di lavoro, mi ha bloccato tutto, mi ha bloccato. Non lo so perché, boh. Vabbè, se non piove, vado domani, per domani, così facciamo quel lavoro, dai. Avanti, c'è un bacchino. Signoria, stiamo guardando. Ma qua non sta piovendo, Mari. Sta gocciolando così. Ha piovuto stasera, però adesso sta gocciolando, non sta diluviando. Qui abbassi, qua a momenti. Qui a momenti, intanto c'è una bella bagnata, poi si calma, poi fa fitta fitta, poi ritorna. Boh. Qualche nuvola fa tutti. E quella zona, Antonè, cosa sta facendo? Io niente, qui non sta piovendo, la verità. Grazie a Dio. Vabbè, la tua, la zona dei signori, va, la zona dei signori. Guarda, signori, questo passaggio, Antonio, si è allontato, lo preso, lo stesso. Ma sono tranquilla, me l'ho preso. Grazie a Dio. Vabbè, va, va, sì. Già va bene così, va, già che posso lavorare, che to. Sì, anda, beh, anda. Meglio così. Ma chi è giovente? Sì, ma le grande stiamo usando, Marì. Perché se 9, 5, 9, 10, 9, le sbalzi ci sono. Sì, sta... Sì. Sta caricando, ma sì, sta caricando. Ah, caricando lo stai. No, io sto andando con piccolino. Con l'uovo sto andando. Va bene, una donazione. Se non è sempre le 9 qua, se le 9. E poi l'ho comprato nuovo, ho messo il più amplificato, abbiamo inserito quello lì. Ma non ho capito perché l'ho detto? Detto che abbiamo messo il più amplificato. Anche io non te l'ho detto, ma non mi se il signore ha aumentato poi questo per subito. Antonello, Antonello, non va a muoversi la pista, avanti pure. Sì, io lo sai, io gli ho dato andare a farsi un giacchetto. Antonello, faccio la pista, non c'è nulla da fare. Faccio la pista, Antonello, faccio di noi. Antonello. Sì, è caduto. La pista, bene, non ti va chi? Caduto, Marino, Antonello. Poi, è così. Io pensavo che oggi ti facevi vedere, invece niente da fare. Non ti ho chiamato, ma detto già lo trovo lì, invece non ci vedi. No, un attimo, perché non sono avvicinato, perché devo fare una commissione, poi mi sono radio e non sono a casa. Tutto qua. Non mi sono avvicinato. Vediamo domani se è in casa. Domani forse potrebbe essere deciso, vediamo se non piove, come facciamo la roba, ho trovato su YouTube. Questo è il mondo, se no faccio un caso. Ma avanti tu. Sì, io sto andando a prendere la signora e torno subito. Ma c'è Mado da andare a pigliare. Ok, ci sentiamo dopo, signor Bacchisio. Ciao Marino, ci sentiamo dopo. Ok, Tore, benissimo, ci sentiamo più tardi, va. Antonello? Dimmi. Ma signore, c'è per solito abbassato ancora? No, no, si è abbassato il segnale. Allora io sto con la strana, no? Boh, solleva. E tutto sollevato, E tutto sollevato, va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, guarda questo passaggio. No, non lo so, ti sento male comunque sia. Ascolta, c'è il processore inserito? C'è il processore inserito, sì. Staccato il processore? Staccato? Staccato, sì. Staccato questo passaggio, avanti. Dopo? Staccato, vado a prova, avanti. No, no, attaccalo, attaccalo, che è meglio. Allora, aspetta, Allora si è attaccato, 1, 2, 3, prova. Quante sono i watt? Dimmi un po'. 50 più o meno. 50. Ti sento un po' male la verità. Ma scopo. La verità. Aspetta un secondo. Io sono qua. Sì. chi? Ciao, cosa stai usando? Il fratello del mio? Sì, il fratello tuo, sì. Capito, capito. No, il mio è freddo, se no le macchine funzionano. Sì, bello. Questo come lo stai usando? L'Intec è nuovo che avevo comprato, il 40 canale Intec. L'8 9x9. Sì, sto utilizzando quello nuovo, quello che ti ho arrivato, proprio che... Ma come funziona la pulita? Che non è 8 mesi, no? Diciamo, va, va bene, più o meno, va. Non va bene, te l'ho messo semplificato. L'ho tolto dall'altro, l'ho messo qua. E, infatti, già mi ha chiamato la capsula, l'ho cambiata, e dice che esce più bene. Non è stata pulita, perché se non è che tutto quanto è raffio, superficie non è poc'anzi, ma non è stata pulita, dai. Non è pulita la radio? Sì, sì, va benissimo adesso, poc'anzi no. Secondo come schiacci allora? C'è una 9, la 9 la presentazione. E già va bene, vai. Già va bene. Torello. Via, cazzo. Come va nel tanto lì? Aspetta un secondo, cambio l'apparecchio, un secondo, e poi vediamo se... se la vedo da te, due minuti. Ok, io sono qua, io... Come ti sei macchinio? Aspetta che cambia apparato anch'io, vedrò un po'. Ok, io sono qua, vai. Avanti. Salva un po'. Salva il passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, sto usando il Saturn Neck adesso. La numerazione è pulita, ma si vede un nuovo qualcosa, sì. Allo? Va bene, come la stai usando? Non ho capito, avanti. La... Mari, stai usando Massino, Masino stai uscendo, buonasera circolare. Buonasera Giovania, un po' da signore, cioè, mi sembra che c'è un po' mezzo affrontato, sto guardando io, dai. Bene, capendo di ora sto, se sei stato, entrare lo faccio un bacchisio. Giovania, avanti per bacchisio. Ehi, mi ascolti adesso Marino, buonasera Giovania. Sto provando un altro Giovania. Sono gli ascolti Marino adesso. Adesso 9-5, la versione è purissima. Bella, bella limpida, avanti. Ah, ok. Avanti Giovania. Bacchi, perfetta, la radio adesso è perfetta. Anche Antonello ha migliorato, dai, la prima, no, sì, si capiva bene, sì, però questa è migliore la radio, Antonello. Ma chi lascia questo che va bene? Questo è quello che hai visto tu, però, mi. Ma questo è migliore, dai, è chiara abbastanza la radio, dai. Ma questo si chiama signor apparecchio. Quando sto così bisogna tenersi il conto, bisogna spolverargli ogni tanto e pulirli bene, ecco, tutto lì. Vai Antonio. Tutto a posto, è stato un eco in questo momento. È stato un eco, va bene, dai, è anche buono. E poi c'è come è ricezione anche la, il Saturn Echo è un bombo, è una meraviglia, ecco, per cui non c'è da dire niente, tutto lì. Vai Marie, però tu stavi uscendo un asilo poco fa, io ti sono un po' così, io mi sono un po' fermato, noi un po' fermato, Antonio ti sono benissimo, ho trovato un po' di tutto il sotto. È troppo di sotto, troppo forte, ma chi è pulitissimo come innovazione, beh, avanti io, ma chi è? Invece è un po' Saturino, Marì, non esce limpido, c'è un po' Saturino. Guarda questo passaggio adesso, ma chi va bene? Adesso è migliorato, ma non è vero Gianmarì? Eia, al 100%, va bene così Marì, ma poc'anzi. Infatti Antonello non ti sentiva bene anche per quello. Adesso ti sente bene, vero Antonello? È abbassato di amplificazione più che altro, con processore. E infatti quando solleva c'è l'asino, boh. Così che va a te che sta parecchio, mi ti so. Ma chi? Aiù, canta! Canta, che bella voce, aspetta che arriva il dottor Stranamore che sta andato a prendere la signora. Si è sentato. Dai, lo sentiamo dopo allora, là. E infatti a quest'ora va sempre a prendere, perché allora, siamo qua, vai, siamo qua, riprendi Antonio. Sì, d'accordo, non c'è problema per quello. Qui siamo tutti a posto, siamo tutti messi bene, sì, e ora? Beh, penso che non mi avete detto niente, vuol dire che è stato bene questo qua. Sì, sì, è basso di radio, ma già va bene, va. È il microfono normale, cosa vuoi pretendere, Antonio? Io sto usando il microfono normale, suo proprio, vai. È appunto per quello, già è normale, quindi va bene. E così, almeno passo, però è perfetta, quella che la radio che incontro, tutto lì, avanti signor Bacchisio, fallo scaldare bene quello lì. E adesso gli faccio il fuoco domani, gli faccio il fuoco, no, è sempre nello stesso punto, capito, l'ho tratto l'altro giorno. Non deve superare un certo limite, se no satura. Non è così, Antonè? Non è quello il problema, tra l'altro ci vuole il microfono amplificato a tavolo, quindi cerca un microfono amplificato a tavolo, poi te lo aggancia con quel tipo di apparecchio, lo butti a casa e poi tu lo senti e mi dici come esce. Hai capito? Tutto lì, te l'ho anche detto un'altra volta, non puoi usare il microfono normale per uscire, hai capito? Non esiste, te l'ho detto un'altra volta, quindi lo sa anche tutti, lo sanno, non è che non lo sai neanche tu. Il microfono normale suo, purtroppo, con quel tipo di, con l'attacco al processore, fa schifo, e anche senza, non so l'altro. Il processore è staccato adesso. E vabbè, ma già lo sa anche Gio Maria, ci vuole un microfono a tavolo, a lato a quello, o usa l'Elta, mettete in testa, o usa l'Elta, o se no un MC60, quello che vuoi, basta. Tutto lì. Ma chi? Quanti cavi c'ha? C'è un cavo della tua cavi. Ah, dai, allora stavo confondendo. Ma infatti. Vabbè, se trovi MC60, il suo proprio è una cannonata, allora va bene, capito? Certo che, anche come saletta dovrebbe andare bene. Chi è che ce l'aveva? Tu ce l'avevi la saletta, l'avevo attaccata, no? Ma è tornato me ne hanno, l'ho prestato, bruciato quel tipo di microfono, capito? Ma è tornato me ne hanno, se no gli avrei regalato la verità. Questa volta purtroppo l'ho dato, l'ha bruciato, hai capito? C'è gente che lo sa che vuole la roba gratis e poi non te ne torna più al baracchino e poi si fa più sentire. A fondo perduto, lui Antonio, a fondo perduto. E appunto per quello, a fondo perduto, proprio così, già lo sai anche tu. Quando barichino, mamma mia, che c'è bene, hai messo, non ti ritorno più niente. Grazie, meno fatto Marco, bravo, faccio le schine. Oh, io avevo due di saletta. Ne ho anche due pro pure. Ne ho quattro già detto io. Due normale, quelli pro, quello tutto in plastica con lo strumento corretto, anche quelli due ce ho io. Vabbè, non ci sono di lo sai, non è che puoi vendere i microfoni così, no? Ormai è finita l'era di vendere i microfoni. Sai, sono tutto finiti, diciamo, che cosa è quello? Roba c'ho io, vabbè. No. Sono i soldi. Si scotteremo la casa. E se la tocca in culo, lascia tu. È quello che ho fatto io, per saletta. Ancora ce l'hai? È certo che ce l'ho ancora. E quello è buono il microfono. Lo so, infatti ce l'ha Elio Piuma, quel microfono, già lo sai. Mica ce l'ho io, no? Attaccato alla Kenwood suo. Io l'avevo prestato a lui e non è più tornato. Quindi figurati tu, sei contento lui. figurati tu. No. Prima i soldi, dopo la faccenda, è inutile, cazzo. La gente si dimentica, cazzo. Allora, e allora ho due microfoni, no, lo saranno. Adatto, lo sappiamo che quando lo dai dopo si dimentica di tornarlo, così che è meglio darne. Dopo, ecco, dammi tanto e te lo do, se non niente a fare, voglia. Purtroppo capita così, quindi a un certo punto dovevo fare. Mi ammazzo, non se la piglia in culo. A un certo punto non me ne frega niente, non è che... Non mi fa proprio da me, non hai capito? Quindi... No, certo, non me l'avrebbe tornato, certo. Che se gli hai prestato, se gli hai regalato un conto, se gli hai prestato un altro conto, penso che è diversa la questione, andò ma chi? Mi ha prestato un mobile a te, e se l'ha prestato un altro, poi mi hanno reso molto, io signori, ciao Bacchi, mi sei regalato giù da casa, mio cognato, ciao Bacchi, ciao Antonello, ciao Gian Maria, sono tu in Antonio, quello che ti parlo, va, avanti Bacchi, se in caso ci sentiamo domani mattina, avanti Bacchi. Ciao, ci sentiamo alle prossime, buon lavoro, buon tutto, buonanotte. Ciao Mari, ci sentiamo nel prossimo, ciao Tony Cazzo, a domani c'è cucina, ciao. Beh Bacchi, infatti, se controlla Bacchi, infatti, se stai uscendo, non stai uscendo bene, controlla che c'è qualche, ma non hai toccato niente, prima stai uscendo bene, non è che abbia toccato qualcosa. Controlla, dai, controlla che infatti c'è qualche cosa. No, attore. Adesso va bene, sta uscendo bene comunque. È l'ultimo passaggio, sì. Ok, dai, vi lascio 5 minuti, che rientro subito, là. Ma no, secondo lo spigno, rientro fra poco. Sì, fai il passaggio. Sì, ma non è perfetta, non è perfetta ancora. No, devi fare il passaggio più lungo per vedere un po' com'è la situazione. No, no, ho stesso, male, male. Controlla, controlla, qualche cosa hai toccato. Hai toccato qualche cosetta. Fai il passaggio più lungo. No, no, no, no, non va bene. Ma il bacchiglia quanto ce l'hai? Guarda un po' adesso. Fai il passaggio più lungo. 1, 2, 3, via. Già migliorato un po', va? Ha migliorato il fuori frequenza. Ho aumentato anche il segnale. Che c'è? 9.30, quasi 9.35. Sai cos'è? Quando ho spostato quell'apparato sopra, deve essere che abbia toccato il VFO e si è spostato. Per quello, ma infatti è tutto strano, però adesso va bene, va. Infatti non ho guardato la frequenza, non l'ho letto, mi guardavo la freccia, vedo se sta leggendo la frequenza, poi ho dato lo sguardo alla frequenza, sai che cavolo, sono tutto in casino. Sì, capisco anche queste cose, bacchino, anche a me è capitato varie volte, a toccare anche a spostarsi di mezzo coso, guarda, mi dicevo, ma se è uscendo male, cosa hai fatto? Non mi rendevo conto, non guardavo il frequentimento che ero fuori, si può immaginare. E come è successo adesso a me, non guardavo il frequentimento, e via. Avanti, Antone. Antone non si è attentato. Vabbè, il lock se non ce l'ha, ma... tu inserisci il lock, non lasci sempre così, in modo che pure che tocchi il VFO non si muove. Infatti no, siccome col braccio poco fa, stavo spostando la roba che era sopra, perché era anche coperto, hai fatto entrare un po' d'aria, e ha toccato il VFO, e l'ho mandato fuori frequenza, io non, stupido, non l'ho guardato subito, guardavo la freccia, e ho detto il cavolo. No, io ti ho messo il blocco per cui è bloccato, pure che tocchi le cose non se ne fa, capito? Per cui tu metti il blocco, almeno sei tranquillo che non si sposta. Solo dopo magari se vuoi cambiare canale devi toglierlo. Quello sì. Sì, ma tanto non si usa su questo canale, noi devo girare altri canali. Infatti io non ho fatto due anni su posto, non nemmeno tu, prima si accedeva a contare a andare la parte sotto, ma adesso no, faccio sempre fermo qua e gli altri bene questi tre, e basta, non si chiede tranquillo che non lo sposto. Sì, fate così, fate. Buonasera. Arrivito stesso. Arrivito. Bene, ma tu, siamo sta che il trattore mi corre lo zittere. Sì, piove. Tata, andiamo. Allora, zio, Battisio. Ancora, Tore, riempi una tasca d'acqua e portamela qua. No, sono già entrato sotto la gabbiuglia. Sì. È regalata sta leva, io che non ne prendeva a me. Para sorte. Mi sta bagnando tutte le antenne qua. Ma chi? Giovane, dimmi. Ah, io almeno maturano gli aranci, cazzo. Già sono più maturi dell'anno scorso, sembrava nucci l'anno scorso, cazzo. Ma quest'anno già sono maturi, dai. E quest'acqua li fa molto bene. No, sono maturi abbastanza, io ogni tanto deve. Arrimano a Giacosto due carrioli della terra me lo racconto. Facciamo un tunaggio con un rastrello e poi con la baraccia caricata la carriola la facciamo un tunaggio. Qualcuno c'è sempre, però non è. L'anno scorso sì, ma quest'anno no. Prima la pianta, quella più che era più tagliata da razzo, di chi vedeva un bene nel parete, chi ce li ha nel parete? Ma su l'altro, no, qualcuno, e basta, hanno bastato, ci hanno già buttato un poco, ya. Ma quest'anno no, grazie a Dio, non ce l'è in terra, ecco, qualcuno capita e basta. Io ne ho caricato due carrioli ieri, era quello sanguigno e un albero normale ne ho. In quell'albero normale non è rimasto uno, tutto in terra, sanguigno la venne ancora che chilo. I tarocchi ne scende qualche d'uno ogni tanto, e quelli faccio calente mangiandolo lì. Non li conosco le qualità, ma anch'io degli aranci, capito? Però ce ne sono buoni adesso, ce ne sono ancora che sono anche verdi, però c'erano tutti colorando e sembrava che non ce n'era, ma è pieno, sono pieni gli alberi, per cui a voi gli aranci, capito? Sono più belli dell'anno scorso, forse perché magari la seccagna non ha avuto cose, non ha allattato bene l'albero, per cui erano piccolini, minuti, mentre quest'anno invece io per estate due volte a settimana innaffiavo e ho visto che sono andati bene, è abbastanza maturo e mi ha messo anche parecchio, dai. Chi ha rovinato tutto il vento dell'altro giorno, che mi ha buttato tutto in terra, quello. Però sono i tarocchi, quello lì sono già, non sono dolci, si possono cominciare a mangiare. E quelli ce ne sono anche parecchi. Quelli stanno facendo con qualche duro, cade anche quello. Poi ci sono i Washington, quelli sono ancora verdi. Quelli sono più tardi là, per cui anche lì sono tardi verdi ancora, non verdi, stanno cominciando a colorare e basta. Ma forse magari anche quel vento, cazzo, che lì ci tocca, vabbè pure ci tocca, però io sto in frangimento, per cui già ripara un bene. Quello riparò parecchio il frangimento, ma a me, ti dico che avanti ieri, sono contento. in settimana scorsa. E sono scappato, c'era un vento, ti rovesciava. E tu figlia della luce, mi andavo a casa, sto lì a discutere col tempo. Tanto stavo lì, vedevi con gli abili, scuoteva, ti arrabbiavi, e me ne sono andato. Ehi, qui giorni di venti, vento forte, cazzo. No, eppure no, non avevo ne ha buttato, ci toccava ugualmente, no. Ma cosa stai dicendo? Mi ha buttato quelli che c'era dall'anno scorso, perché c'era, era pieno ancora questi due alberi che io. Così che adesso ce n'è qualcuno adesso attaccato, quelli dell'anno scorso li ha buttati tutti in terra e in quel vento. Magari il telaio era magari debole, allora il vento l'ha buttato in terra, mentre che quelli nuovi no, sono più forti il telaio, capito? Marcello, avanti tu, i tuoi cercati non li ha buttati nulla, il vento, vero? No, no, no, a me no. Gli alberi che ho qua già sono dritti. Ma chi? Hai visto? E così bisogna fare Giammoli come tole. Bisogna fare come tole. Gli alberi suoi non li, nel vento non gli fa niente perché ci ha fatto il frangivento. Eh sì, bisogna far così, bisogna fare. Ma chi? Come vendi tutto e degli arrivederci. Sì, se trovo l'acquirente già faccio così. Solo che le cose le vogliono gratis. Poi, fa danno gratis, arrivederci. Tanto è la ragione, ho bisogno di accoppolare e magari c'è qualcuno che sa presenza, ma non hai di là più, non hai più di là, ma chi? E là sa poveri che cosa puoi fare, ma là c'è più che la barca va, sta andando da voi e sta arrangiando, già finito parenti. Se vuoi travagliarci a travaglia, se non fate niente di piace. Cioè è vero. Lui ha per carità. Boh, certe volte tu travagli, cominci a medicini, chi sei il sastro, e non riesci a cavare, ma con questo qui mi muori, non vorrei. Però, è bella che tu fai la frutta e ti arrega a casa, che c'è roba mia, sei tranquillo, che roba tua. A già cosa vuol dire, beh, ma chi è? Lì c'è il cupareggi, non sai cosa è, che medicina ci hanno messo, che marasò che mi ha disegnato. Quella che porti a casa è tranquilla al 100%. Se sai che non farà nulla, puoi bagnare la voce e tutto. La questione sì, non è che stiamo migliorando, andando e peggiorando tutti gli anni. Però, non ci possiamo fare niente. Come fa la barca andiamo lui. Ehi, da ragione. Avanti tu. Infatti, come va la barca bisogna farla andare e dirgli arrivederci. Ma chi? Lui, perché sei che era più gara. Allora, dai nostra, ma noi ci dobbiamo essere in casa tranquillo, fatti da passeggiatina, mangiare una sera. E boh. Lui, Siamo male, ma chi? Ma ti dirò una cosa. Sono abituato ad andare in campagna, non posso fare nulla. E a che ora viene bicio e si fa la campagna. Adesso questi giorni non si può fare nulla, è tutto rotto. Eppure farò una testa ora, sono qui in campagna. Io so, però sai com'è. Gli alzai è più santa, è più poca cara fin te. Vabbè. Allora, non si può fare nulla. È tutto rotto. Appena comincia il tempo buono, cominciamo a piantare che cosa. Allora tu produci e mangi. Sai che l'hai piantato dura e non hai bocciato nulla, tranquilla e beata. Non invece quella che compri. Insomma, adesso ti vuole il boccio. Medicine mi sono sentato, ma qui non può essere, ma qui l'anno passato non ci ho fatto neanche mezzo chilo di fagioli in salata, si è affigliato lo vaimo, e dice medicheggi, la cosa medicheggi, la moto zappa medicheggi, l'ha smazzinato tutto. Chi c'è un faccio, tutte voci che canto gravare da voi, arrivare anche in un periodo, cazzo, non fai niente. Io ripeto, l'occhio di pianta cosa, no, che l'altro che tutti bianchi, è tutto contento, ma che per un gradone solo, tu ti poni alla fava, ma io poni alla fava, cazzo, bella, tra quello già di ma di fava non ho idea. Arrivi anche in un periodo, cazzo, magari c'è di un paio di chili, non mi faravo, andava a ciappare, la buccia attaccata e non racco mangiato. Ma fatta apposta, cioè io dovrò piantare cosa, poi lo saranno, ma con papà mi ho piantato più, e non pianto più nulla, manco pianti, i pianti io non ci pianti, mi ha dato due e basta, non ne pianto, ma chi, nulla, come chi si riso, quando muori, ne che ce la fai, ne capo, ne brucio, però non pianto più niente. Nemmeno è fallata, quindi manca un paese. Allora, la c'è di Bonillo, di fronte un pianto di Bruna, Bruna Moninca, di Bonillo, ce l'ho sette ci guidano. Ho ripristinato un poco, e poi ho detto della fava, se non te la fava. C'è la schemeceva la borraccia, ogni a poco di piccuna. E poi, manco l'arresto in alto, la rete non va in l'hanno passato, si è posto l'arresto, manco una l'ha toccato. Vabbè, se per la rete è già riservata per cui. Ehi, una cosa, vabbè, tu magari, se stesso magari tu fai pure un genere, magari o una cosa l'altra invece si fa recuperare, ma io non faccio dopo e poi non pianto più di sempre, non faccio qua, no, sarà no. Tribiate giù. Ah, la fava trasbiate giù. Mi farà giù su, fatto un po' carodo di logo. Era buon che io buro. Ah, ma che mangi fava fresca. Lo ti lo che se la lasci seccare, poi la fai a revisare. Sempre che non mi dori la china. A che gli si lì mi prende male la china, mi prende male. Quindi, se la bella che tu bai, si buro la fava. E la compareggio e buro. Compagno, va bene, ha ragione il produttore, se non è compagno che la produzione non mi vende. Tu quando vuoi la fava vengono da me, te lo chiedo la fava. Come no? Avvertimi quando ce l'hai, anche io giocatore di schina va. Fisilli, fave, tutto di nuovo, tutto. Bella la zeta. Andami, avvertimi allora quando ce l'hai. Però piena di un portafoglio, però quando fare a pigliarla, Vabbè. Ma beh, si vedo, ne farò un portafoglio, insomma, così. Vabbè, vedo pieno, vedo pieno, insaccato. È vero, ma chi? No, farà a portafoglio biondo, ma chi adora un cartello, non s'apri. Ma va, vi pongo un coso, un cartello. Unirsi di monete. Il momento. Ciao, capito c'hai? Ho capito sì, vabbè, signor Bacchi, a puttiagini. Tu non vedi, io ho scicchiato la patata, quando mi aggavo, faccio due o tre clienti, se non vedo un patato mio, dici che buono come interrotto io non ho avuto mai, faccio sempre il patato, non è vero, patato è. È per battaggio, Dici che è un sole strano, è più buono di essere compareggio, ma posso non lo sicuro, dico qua, sempre battato, esce sempre da sottoterra, e non fai che nulla di cutilla. Un attimo, Tom. Sì, Giovanni. Ma chi, ma adesso ce n'hai di patate? Oh, le ho piantate, Tom, si è piantata la malattia e non venuta. Le patate, le ha preso la malattia. E le ha giocato la Claudini, ha giocato un soccolo di 35 metri a casa, le ha giocato mezza cagarella. Non venne, si è preso la malattia, se una volta che le foglie sono malate, non produce più. Ah, è fatto. Fatele così. È così, infatti, è già la chissà mucchina che se ne mangia. Sì, la mucchina, non so che carità. E quando la mucchina giù, diventa la Puglia, sopra la piccheggia. È una malattia, da bene all'ossera, si chiama. Attacca la Puglia, la brucia, e dopo gli si fa un trucco e la patata è fottuta. Infatti, ma... Cazzo, pure chi sa, vivo, andiamo, vai, andiamo. La miglia di ferro è difficile produrla, però chi sa di più, qui sai già per il suo senso, qui sa, mi fa sempre bene. L'anno passato mi ha fatto, cosa ha fatto? 300-400 kg mi ha fatto. Bacchi, purtroppo, Borghese, vivo, non mi ha dato. Certo che sì, da un modo di cosa, un modo di insetti. Io. Tu devi sapere che in corso, l'anno passato ho comprato un semine, un fagiolino, fa l'insalata, era pronto, avevo fiorito, ha cominciato a scivolare, hai stilato che ti ho fatto un vagonico accanto, non ha accorto uno, se ne zio dei semini non ti accorto un po' fagiolo. Leva che ha aiutato, lui è a pace. Infatti è così. Purtroppo anche quello è possibile. Anda bene. Tu devi stare a terra, ha seminato per due simboli a tre punti. E non finire nato mai. Nasce una pianta in oco che a sassi. Sai, il seme è passato, non c'è più, sono tutto, io penso che sia, seme vecchio, seme nuovo, mischiato, e lo vedere, il sole nasce e non nasce per l'altro. Infatti, no, far così, se vedi che nasce è buono, no, pazienza. Niente che va la pietra. Non ti tirato mai a due volte, ma si sono fatti lei, fatti di carrancia, ti vedi. Se la tenia tu, lei va da tu. Sì, via. Così so. È dura la campagna. È bella quando produce, ma fea quando non produce. Infatti quando non produce bisogna fare che da gol, che da maniera, biglia e vendilla, e boh. No, ti spesso prendere, non ti dà di nulla. Quello di vicino a me la vuole, però no, di là non lo capa. Infatti, io accetta, babbo, andiamo, vai, andiamo. Accetta. Tanto ti arrabbia, c'è peggio, quindi se ti fai sangumare è ancora peggio, quindi come ne lasciamo così? Ha diventato la ravanella, da quell'inizio arrivi da Reva e la ravanella distrutta, se sto a peggio come se la mela granata. Infatti, quindi mi do... da calmi e andare sempre ad anarsi, se munisci, se no, pazienza. Ma finisci, non accogliamo, non le mangiamo. Tanto vuoi fare, è un tempo passato. Siamo andati, è un tempo valoroso, infatti mi ha trovato. Con i piedi bagnati, se no si è attaccato una dita, la manella ne è stata pura. Certo. Sì, ti stai portando appresso col rumore di stasera, ti stai portando appresso. E allora è il problema d'antenna, perché questo è il grande che sto usando. Ti stai portando col rumore... Intendi, io pure no, che il rumore quando lo fa vento. E allora è l'antenna, Te lo fa l'antenna, te lo fa. E i stazionari, c'è solo due di stazionari, mi sono segnato. Prova ad alzare la bontà, ti abbacchi. Vedi un po'? Ma boh, mi sembra un affetto a me, cioè, non disturba, Oh, io poco e niente sento qualcosa. Giovanni, non è quello lì, no. Quando sta per finire la cosa si porta dietro... Oh, io non lo sento, sono con le cuffie. Ma adesso è uscito pulito, poco fa è che stavo uscendo. Prova a macchina, e tu hai grande certo. Signore. Eia? Ma tu non c'hai grande. No, c'ho il presidente, sto adoperando. Sta benissimo, ora apparecchio va benissimo. Va benissimo con l'apparecchio. Se adopero quello là, sente troppo QRM, si sente. Questo. Comunque si sente la ventola. Come tocchi il microfono o qualche cosa, si sente track track truff. Perché è sensibile, capito? È un bel sensibile. Così sensibile. Ehi, prova a signor Macchini. Guarda, adesso ho cambiato apparato, guarda un po'. Ecco, fortissimo adesso è. E la radio è più forte adesso. Beh, io sento solo la radio. Che nuovo, questo ho messo nuovo, ma che quello andava bene, è un po' strano, Certo magari cosa mi dica, ma io non sentivo niente. Sentivo magari poco un rumore di vento e basta. Chiaro che adesso magari sono nuovo e tutto diverso la radio, dai. Forse sì, forse la vento la dovresti sentire, sai perché? Perché l'alimentatore si è messo in fronte alla ventola. Adesso lascia la portante fissa, un attimo. Adesso non ce n'è, il ventilatore non c'è più, perché sono due alimentatori, uno con il ventilatore acceso e uno con il ventilatore spento, questo è spento. Capito, mi hai detto? Sì, no, ma anche poco fa era così. Forse era sensibile anche il microfono, che come lo muovi, forse era quello. Forse ci aveva il macchia troppo alto anche. Un osaccio. Vabbè, ma questa già è buona, anche questa già è buona la radio. Se non è buona questa la radio, cazzo, l'apparecchio nuovo. Ma che se il microfono normale, guarda, puoi pretendere. Cosa vuoi pretendere, so? Sì, vabbè, meglio così. Tanti si bene. E andrà bene. E questo adesso dovrebbe andare meglio, perché lo condite con l'olio d'oliva di cosa? Di Santo Dettaro. Intanto bisogna intendere i burueti un po' che domani, ma andiamo. Ma graziano che fino ha fatto, non so che cosa ha mangiato. Aga, Marino. Piano. E cosa ne so? Senteso Biuga. No, nulla. Ho in PMR. Il PMR era stasera, mi ha aiutato il PMR io. Mi era di fastidio. Per il rider più comodo visto che riportava facilmente. Infatti. Ma sempre con chi se non si può rimanere. Tu sei di Giovanni Giammarino. Un attimo, hai capito, Batti? Dove si fa un po' questa notte, Eva? Ma dove lascia l'altro Raino che vi ha fatto incidente? Come l'ha fatto Eva? Marino mi ha detto che prende a Calasci, e io che mi sono cacciato, non con conteggio. No, quando sono uscito io stava piovendo, non molto, ma stava piovendo. Ah, ma deve lasciare che ha caimato. Io grande sta giusto che si fa tocca roba, là. Non è il posto, capito? Io avevo lì, a lavare i crali. Adesso l'ho fatto la strada, siamo lì, sono più contenti dei miei turbini. Per noi il senso è più buono, perché almeno la salute, grazie. Oh, yeah. Allora, volevo sciacquare bene. Purtroppo. Cosa che devi fare in un mese, te la fate in un paio di lì. Se di un mese la fate in una lì. Capito? Non mi sa che fai nel continente. Uiuia. Che sono la base di Gagliari, no? Sì, mi buro, non è il nuovo, questa grande, la SSR, la fate vedere. Dove mi ha fatto? ci ha fatto d'orra, ce l'ha fatto lampato un poco di grande nei cantoni mariani. Ma infatti ci prendi, è roba grossa. E poi è muovati sotto, ha fatto lo sugo. Infatti, avrai già pronto, virai. Brutto, brutto. Noi, confronto alla che c'è la base di Gaia, noi siamo troppo bene. Siamo in paradiso, quindi chi c'è di sopra c'è di più male di noi. Infatti, chi c'è di sopra che c'è di più male di noi. Se chi viene è passata, la sta lì, una lampada tutta chi sai, pure che suo vento. Certo. Non se ne sei vaduno, no? Tutti ne rallampati. Ah, ma devono aspettare un po' e tornano a piantare. E dove? In continente, non hai visto quegli alberi? Il vento mette ne rallampati. Ehi, perrà gli ha pigliati, E su quanto una lampada. Un peccato, perché quelli sono alberi speciali per i pali, eccetera, eccetera. Ma raggio la pigliati, tu vanno, oh, vabbè, magari già riesci a recuperarli, vai. Quelli erano anche destinati anche per fare i violini, erano destinati. Oh, bubu. Ma che com'è la radio questa? È la limpida e chiara, cioè noi forte. Oh, appunto accendere l'altro allora, a vedere un po' se funziona, ma già funziona allora. Chiuso quello lì, aspetta, bellissimo la colorazione. Detto a te, com'è? Bellissima, un po' bellina, radio 5 perfetta. Meglio così, va. Bene, anche questo bisogna iniziare a accendere, si rovina, giusto che portarlo a buttarla fuori nel cassoletto. E poi la se ne raccoglimi. Ah, ma più fatica, capito, perché pesa questo. Ah, che do grosso, Capito, non si che gli dà ragione. Oh, ya. Yeah. Così, buttate via tutto, oggi non bisogna fare più nulla, bisogna tutto rimunire, mettere tutto sotto chiave. Ehi, come che va di alcuno? Detto la Mario, e di voler la manta, butto, ma lo pigliati la lume del dai, e lo saranno. E la manta lascia il fabulo nel bone. Ehi, allora, la manta me la bocchia, guarda giù freddi, lunghi. La manta del bone. Si deve fare un raio, lasciare il cubacato. Lo raffreddore il figlio allora. Così. No, cosa hai messo tu, la coperta o la trapunta? La trapunta è meglio, che respira un po', la coperta è troppo pesante, che da voi non riesci manca a girarti. Un c'è il cappello. Anche in campeggio è da andare. Perché se vedi non ho chiuso il cappello, vedi solo 3 o 4 l'avevo, quando facevo un campeggio. Ah, l'unica cosa è me, abbassi i sedili, a te trovo in macchina. Ma in macchina, sì, in certa macchina si fa bene, ma in certi non lo tanto bene. Meglio drom di terra. Abbasso meglio, le sedili, abbasso i sedili da riddu. Abbasso e mi goffo dentro, mi goffo. Con che cosa? Un saccappello. Assai vivo. Capito, ma chi? Il saccappello. Il saccappello oggi dormito in nave il volo. Una volta siamo andati con Pariangelo a Cosa Roma, siamo andati a pezzi di ricambio. E dopo erano i bocci, passati un po' solo c'era. E hanno buscato il saccappello e hanno dormito dentro il saccappello, in un'altra banchina sopra all'ultimo piano. E scasi a me. Il mangiare era un po' gomito lo saccappello, però dentro le scasi a me. Faccio mangiare per la forza di rugosi, un ritorno, un diffuso, cazzo, e poco li fa la ritorno in nave, cazzo, cade così pura, per carità, e anche l'aria stesso che li fondi sopra, capito? Non mi dettagli la venire, ma tre sono per le basso, per scadere a me. E la notte mi hanno imputito nel pulla di leva. mangio commissario dopo la rileva, mangio posto a fianco alla banchina, mi viene imbottita. E adesso che gli strumenti che virano. No, io che andavo a Rugani, ero per attrezzato, cazzo, per gli gubbici, cazzo, ma grossi, cazzo. E per cui se aria condizionata non si resistia la loro, chi sa va che la mangia io, cazzo. I cambiare il motore, i cambiare la cabina, cazzo, con il riscaldamento e basta, da poi ne suavo, mi zappavo, uia, e cazzo, mi viene tutta la luce, cazzo, tanta la di cui tenete, ma bufoletti, sì, uia, lui sono romita, ci ho fatto pure in nave, no, quando viaggiamo con un draghetto del Golfo di Olive, ah, stai chiedi, cazzo, viaggiare i prati all'autizio, viaggiare i lettini, così che eri tranquillo, ma è l'astrico. Ma sei a dormire, ah, non sono stato bravo, ho detto, c'è proprio di volavi, uia. E andavo a sedere a Giudumiti in carriera. Non ci pare il biglietto. Andiamo a te, c'è il passaggio in ponte. Passaggio in ponte, Drumi in carriera. Oppure se ci fare fortuna, è nel bar. Ehi, vicino magari, cazzo, e si vira il marcheggio magari, cazzo, il coso, il fornitore, cazzo, è Drumi, la corretta, cazzo, mi ha riposato i luci. Da voi toccava a tornare a partire in macchina, giù fatto un buon chilometro, cazzo. No, c'è tutta la notte in gabinetto, per carità, per fare il tempo. Per fare il tempo a caricare e a partire, dice, guarda. E se che volte brava di puro e toccava a dormire fuori, cazzo, hai gettato a mettere in domanda la luce. Sì, sì, è un problema. Tutti voi che non si poteva tempo a imbarcare la sera e bisogna stare in domani, tutta una lì lampade vivi, non stava nulla. Vedo la voce, ha messo su in barcarità, cazzo, e faceva per così lungo, se che volte io caricavo a Napoli, cazzo, non riuscivo a imbarcare a casa a Civita Vecchia, allora andavo a Piombino, ma a Piombino sto comando a Livorno, e fino alla voce a voi secondo la mura a Coso, a Genova, oh, yeah. Chilometri a chilometri, ma chi? Yeah. Per carità, ma sono finiti che si deve. Pure le macchine che nei mesi di oggi magari era più facile fare una vettura, ma gli incidenti, queste macchine faccio io, specialmente cade la gara con 120 quintali in alto, passo gotto via l'80NC, capito? E per cui appena la strada e in seconda di realtà. Poi dopo la idroguida, dopo la nuda dice il cambio, avevano stato bravo, con i primi, e la pesante pure poi là. Tutto per ruina, tutto per ruina. Cazzo, sono 7 quintali che hanno creato i bucciati, queste macchine così. 7,5 metri, mira, macchine, 7,5 metri lungo, cabina e cassone. E voglio la temperatura, lo mio. Cioè, amici, ma che voce hai? Non penso più che si sono in pensione. Avanti, si otto. Sì, chiatta, andiamo. Adesso non ci sono più quelli. Va, capo, che ce la fai, che pensa la vacca, sempre bussato in una vettura, cazzo, ma rimbussato, cazzo, con tutte le, con tutti i cosi che ti servono dentro, cazzo, li metti proprio riscaldati, cazzo, e ecco, cazzo, cosa vuoi di più, ma che prima, da un sedile all'altro. A fare il primo telefono in coso, nella cabina. Amici, per un telefono ha inserito, è tutto il gomma di Davison. E poi quando ci ha fatto che fosse manco di una bizza, si fa portare in poltrona, la giuccia si fa il polverone, è un coso, un autovettura di lusso. Ehi, arricoloscia, ui, ma che non mi mancava mai, avvio, ma che non mi mancava mai, ma il telefono non esistiva allora, E ogni poco che abbiamo un telefonino. Ah, ti pare che ancora non esci da Pisa, un gatto. Con un baracchino va via, chi ce la mi fa di accompagnia, Il telefono è la vera, la via, non mi fa fare la via con il telefono, però c'è lo stesso numero di casa, ed è un barragione che pesava anche 3 o 4 kg, una cosa in negozio, vera un amplificatore, e però che senti lì al giorno, quando era in Sardegna, da fuori non lo intendi, oppure una vicinanza che non va via riportata. Faccia mai visto, potevo fare lavoro a voi, ho disegnato il muro, purtroppo l'elettronica ormai ha superato tutti gli ostacoli, per cui va bene così, va bene signore, io mi devo lasciare, chiudo, magari ci sentiamo domani, se Dio vuole, che devo fare qualche cosetta qua, per cui ne approfitto, vai. Ciao Tom, ho preso il metro, sono Tom in casa, e ciao Bachi, ciao Tom anche in casa, anche tu, e ci sentiamo domani, grazie della chiacchierata, vai. Ciao, grazie Gian Maria anche per te, ciao per il correo familiare, buon correti, e grazie delle capsule che mi hai mandato, ce l'ho in debito con te. Benissimo, ciao Gian Maria. Buonanotte e buona cena. Ok, ciao Gian Maria, a domani. Ok, ciao, chiedo, buonanotte. Allora Gian Bacchi. Come la va? Lo provo a contare una cinghietta di un riduzzo, ma che la butta mi sei fasciata a che finì via da un centimetro, no, da un millimetro, e non la seconda dice manca buccarla che è in acciaio di chi ti vuole, ma basta avere la butta d'acciaio vola, tu fai andare a mettere la bucco io, la mettiamo la trappa alla colonna e la butta non si taglia, fai il buco fine fine, va giù brubato, ma che sei fasciata non a testa, dove è giù fasciato, no, non fanno, si rompe la punta, si rompe perché sono troppo morbide, riprende la punta per bruciare, per bucare l'acciaio, manda la brico e la biglia, la punta brico della brico e per l'acciaio, col trappo la mano la rompi sempre, sia fatta che cartesia, perché basta uno spostamento di un decimo di millesimo la è troncata, il trappo la colonna è ferma, la manda proprio in verticale e la buca. Il trappano a colonna stavo usando col trappanino piccolino. No, è la punta che non serve, to. È la punta che non serve. Deve comprare una punta per acciaio inossidabile. Vediamo domani, se vedi domani no, domani devo andare dal medico, se ce la faccio domani la prendo. La riprende, per acciaio inossidabile, sono dure. Deve stare tranquillo da mucchi. Io ho bucato ieri acciaio temperato, però le ho fatto un buco da 2,5 mm, è troppo la colonna, sai come si è separata, e poi a maniera di cioccolato. Sì, ma questa è fine fine la punta, hai capito, è fine fine, ma no, non regge, che non c'è buca, basta che si muova appena, boom! Non si deve il movito, il pezzo tu lo devi mettere nella borsa, non c'è il morsetto, tra il trapano, avete compreso, la colonnina per mettere il trapano, sotto non c'è il morsetto, non ce l'hai. E che c'è tutto, quelli piccoli però, il trappanino piccolino ci ho messo, perché solo quello l'aggancia, che da manna manco rubiglia rogoso, la punta. La stessa cosa con il trappanino piccolino, basta che rimanga fermo, che non si giochi, non abbia gioco, e va là, tranquillo, certo se c'è gioco la spezzi, ma se ci porti un pelo è già tagliata. Come te l'ho buttato e coso, tum e partuta. Perché hai calcato tutta una volta, devi piano piano piano, leggero leggero devi andare, e la mucca. Il più leggero di che sono andato. Arrivi da un certo punto e hai fatto tang ed è partuta. E perché ti sei portato, se no non è partuta. E Cavallo e la Buffonelli. E purtroppo, ah, rimane così, se poi non ci riesce a ciappare una cinghietta buona, a chi te la assaggia è buona, solo che a ciappare un pezzo costa 30 euro, costa più, più la cinghietta, più la lubezzo che la cinghietta. Sono per comprare la cinghietta nuova. Infatti, aspetta, no, io ho comprato già una volta, se tu da 6 mesi e sei fasciato. Ma cosa si fascia, Roberto? Roberto invece di essere d'acciaio, glielo mettono in ferro, glielo metti. Si arrugginisce, non gira più, arrivederci e si fascia. Il trucco c'è, ma non si vede. E se no, come ti va della pendilla? Ma io ho aiutato una volta al giorno di giambo e bu. Ha detto, certo, la gente sta sempre giambo in derubizio. Io, la che si faccia, cerco di recuperare. Cerco di recuperare. E se no, piglio un po' con la bassi. Infatti adesso gli ho messo da parte l'orologio. So che lì lo vuole. E ha detto, se acciappiamo la cinghietta, per ha detto sabato lo porti appresso e guardiamo se troviamo una cinghietta precisa. Se non è precisa non fa niente, basta che sia la cinghietta che sia adattabile. Infatti il fatto è che c'ha il pezzo di attaccato all'orologio, che è piccolino l'affare dove attacca, c'ha la spaccatura in mezzo la cinghietta. E tu devi cercare così, con quell'attacco lì. Sai dove puoi andare? È bravo quel signore lì. In via Magno. C'è un orologiaio in via Magno. Io vado sempre lì. È in gamba che sono. È pure barato. In via Magno. Non so se c'è lì. Mi pare che non vedo più che c'è l'orologiaio. E c'è vende articoli da regalo l'orologeria. Fate conto, a me mi ha cambiato l'anno scorso, al primo dell'anno che ho fatto questo lavoro, mi ha cambiato, siccome mi è entrata acqua, e lei mi sono trascurato di portarlo e si è arrugginito tutto il movimento. Mi ha ordinato il movimento nuovo, l'originale, non lo metto in mancare subito. È una marca famosa, ma io ce le devo ordinare il pezzo, se vuole li ordino, però dice costa 50 euro e più 20.000 mi dà per piazzarlo, con 70 euro ha già un rinunzio nuovo. Hai fatto a cuccia? 70 euro mi ha cuccato, è perfetto, rimane che io devo mettere tutto il movimento nuovo, infatti il vecchio me l'ha dato, ce l'ho giù in casa il vecchio, che non ci va nulla. Bisogna ordinare tutto il movimento nuovo, e gli rimane solo la cassa vecchia, l'altro è tutto nuovo, infatti c'è solo la cassa vecchia per l'altro, l'altro è tutto nuovo. Hai fatto bene, se funzionava io con l'orologio è un peccato buttarlo via, infatti ho pagato un bea da voi, della cinghietta è proprio in acciaio, ed è buonissimo, solo che a ciambale rubezzo sono 30 euro, la durata 6 mesi, devo comprare un altro pezzo, no, poi si riesce a ciappare una cinghietta adattabile. Vai a quello che è, del corso. Dunque in via Magno e scende via Roma, saranno prima di arrivare a via Enrico Costa, prima di arrivare in via Enrico Costa, sulla destra scendendo, e vede, c'è la fermata del tram, proprio vicino al portone suo c'è la fermata del tram. Adesso in questi giorni ci passo e guardo a vedere se riesco a recuperare una cinghietta quasi uguale, che ci vada bene. A chi non si paga? È abbastanza gentile quell'uomo lì. Mi sono andato ultimamente a cambiare la batteria a questo orologio che c'era in polso. 2 secondi me la ciambata. Ah, le batterie me le giambo io. Stai ordinate da internet le batterie. Aspetta, che ho 9 euro me ne sono arrivati i dezzi. Addirittura. No, ho 5 euro mi ha preso. Batteria e manodopera. Sì, 2 euro la batteria e 3 euro di manodopera. Perché ci vuole una chiave, una specie di chiave. chiave, siccome la vite, per evitarlo. A me l'ha messo in questa morsa e ne ha cavato. Sì, ce l'ho io quell'attrezzo lì, ne ho due, ne ho. Di quell'attrezzo lì per svitarlo. Provo meno così a vide. A vide sono, quelle luci buone sono vite, che da 4 giorni da sono in casso. Mi hai chiesto di me video stasera che era in casso, lo dappo. Mi ha giocato, la giocava la batteria e ho messo la batteria nuova. C'è la batteria come quella che ho io. Vedi, sei stato fortunato. No, non mi so come l'ha pintato. Quando, due secondi e via. Infatti, che fa così, tocca fa. Io posso così, mi ordino le batterie, se no viraggio me le ordino, 2-3 giorni ce li ho e me le cambio. Anche quello di mia moglie avevo cambiato la batteria io, e gliel'ho fatto io stesso. Se tu ce l'hai preso per svettare, dunque puoi farlo, lo puoi benissimo fare. Ma prima andavo da cosa, da Marcuccio, come si chiama, al corso. Quello, l'ultima volta sono andato a pigliare 20 euro. Hai stato a me, non mi vedi più. Pure a me hai fatto così. Hai detto, boh, avammi la giambuia la batteria, ma ho ordinato l'attrezzo e tutto il coso, e tutto il chisticcio anche, per cambiare le batterie. Quello c'è l'attrezzo può fare. No, io ho adesso ho cambiato la lente. Più mesi fa mi sembra che l'ha cambiata. Ed è tranquillo, sta andando alla grande. Hai visto, andave, me bene. Cosa così sono, se fammi. Batterie per 10 anni tu. Tanto le batterie durano un anno, Bacchi. No, c'è quello del telecomando della macchina, 8 anni, e ancora funziona. Quello sì, no, è già così sì. Quelle sì, però quelle dell'orologio durano un anno e un mese che durano. Bisogna buttarle, e non buttarle, si ferma, ma che non cammina più. Ehi, io posso così forse. Quando vedo che non faccio batterie me le ordino. E viaggio. Ma con sto cappuccino all'orologiaio. Beh. Risparmi tempo e denaro. Andare da dove? Io scendo giù perché è arrivata l'ora del merendero. Dunque devo prepararmi la merenda. Ok, ciao, grazie della chiacchierata. Ci la sentiamo domani. Stammi bene, salutami la signora. A domani. Ciao Tore, buonanotte. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani. Ciao.